Buona serata a tutti, buona settimana da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Prosegue il nostro spazio serale del lunedì e del martedì con la proposta e la riproposta di eventi e incontri che si sono svolti nel recente periodo o sono ancora in corso di svolgimento nel territorio della diocesi di Padova. I mesi di ottobre e di novembre hanno ospitato nella zona sud prima e poi nella zona nord della diocesi un ciclo di incontri dedicato a Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica di Papa Francesco che in occasione del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze del 2015 aveva richiesto di approfondire proprio quel testo, ma anche di iniziare processi in grado di generare nuovi dinamismi nella società e nelle comunità per essere credenti, gioiosi e fraterni. Evangelii Gaudium, uscire per annunciare, è stato dunque il titolo del ciclo di quattro incontri che si è svolto prima a Carceri d'Este e poi a Fellette di Romano De Zelino, iniziativa promossa da Gruppo Antiochia, Ufficio Diocesano di Pastorale della Missione, Caritas Diocesana di Padova, Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Ufficio Diocesano di Pastorale della Comunicazione. Ripercorreremo tra oggi, domani e lunedì e martedì della prossima settimana appunto questi quattro incontri. Il primo è quello curato dalla professoressa Roberta Ronchiato, docente di Sacra Scrittura, sul tema Il Vangelo non si addomestica, l'anima biblica della Evangelii Gaudium. Bene, ricomincio con una parola di benvenuto ai presenti in sala e anche agli amici collegati, ovviamente tramite i moderni mezzi di telecomunicazione. Un caro saluto a tutti. Abbiamo tra le mani un documento che è sconosciuto, tutto sommato non ha avuto moltissima risonanza, ed è un documento straordinario, è un documento straordinario e nuovo per stile, per linguaggio, per metodo, ed è difficile commentarlo senza tradire le sue finalità. Ecco, la finalità di questo documento non è quella di essere commentato, cioè il Papa non ha scritto questo documento perché altre persone scrivessero poi altri libri a commento del suo documento. Ecco, il Papa non vuole che noi commentiamo questo documento, piuttosto il Papa ci chiede di leggerlo. L'operazione più banale possibile, però, che è disattesa. Probabilmente pochi di noi avranno letto questo documento. Quindi è necessario, è decisivo, sostiene il Papa, leggere questo documento, assimilarlo e ricavare da esso degli orientamenti concreti, utili per rianimare la vita cristiana dall'interno. La vita cristiana va rianimata dall'interno, non in un modo appiccicaticcio perché uno ci dice di fare così o cosà. Bisogna maturare un'altra mentalità, un altro pensiero, un altro modo di pensare, di sentire, e questa maturazione avviene attraverso la lettura del documento. Ecco perché allora l'itinerario che attraverso queste quattro serate proponiamo non è appunto quello di commentare, non troverete affatto dei commenti, tant'è che abbiamo persino evitato di dirvi le parti che compongono il documento. Ecco, no, abbiamo pensato che né io né gli amici che mi seguiranno vi diremo in quante parti è diviso il documento. Ecco, non è questa la finalità. La finalità è appunto incentivare la curiosità di leggere l'Evangelii Gaudium e di uscire poi singolarmente o comunitariamente dalla sua lettura con una idea nel cuore, rianimati nella speranza e vivificati dal desiderio di mettersi in gioco e di aprire processi. Papa ci chiede questo, aprire processi, iniziare a fare qualche cosa di diverso nella Chiesa. Allora, proporremo alcuni percorsi interpretativi che lascino spazio il più possibile alla voce stessa del Papa. Per questo, attraverso delle slide, proietteremo dei numeri del documento in modo tale da leggerli insieme e sentire, percepire lo stile straordinario del Papa. Qual è la specificità di questo documento? è di fare della Sacra Scrittura, questo è il motivo per il quale iniziamo con una riflessione sul rapporto tra Sacra Scrittura ed Evangelii Gaudium. Ecco, il Papa ritrova nella Sacra Scrittura il centro propulsore dell'uscita missionaria. E per questo il titolo allora è Anima, se possiamo, sì, il titolo, l'anima biblica, ecco, l'anima biblica di Evangelii Gaudium. Anima nel senso ebraico, ecco, anima non nel senso di una realtà distinta dal corpo, ma anima nel senso di una realtà viva che vivifica. Quindi la parolina ebraica nefesh, che è tradotta con anima, indica l'uomo vivente, indica la persona che vive. E il Papa si trova invece a lamentare una Chiesa che sopravvive con degli atteggiamenti spenti. Siamo ridotti come Chiesa, parzialmente, come società parzialmente, a un corpo che esiste ma non è più vivificato, a un corpo mondanizzato, livellato, senza entusiasmo, senza gioia. Quindi bisogna vivificare, trovare un modo per riacquisire vita, per tornare a far battere la vita dentro di noi. E gli ostacoli che il Papa individua magistralmente nella evangelizzazione, ostacoli che impediscono, affaticano la evangelizzazione e dunque spengono la vita, ecco, questi ostacoli non sono i grandi problemi del mondo, in primis, non sono i grandi problemi del mondo, non è la fame, non è la povertà, non è lo sfruttamento, e esagerando un po' si potrebbe dire non è nemmeno questa terza guerra mondiale a pezzi che il Papa insistentemente ci rilancia. Gli ostacoli che impediscono l'evangelizzazione e che ci rattristano e che ci impediscono di gioire sono altri. Il Papa li cita nel documento, è la chiusura dei cristiani, è una coscienza atomizzata, e poi la comodità e l'individualismo, l'accidia egoista, il pessimismo sterile, la mondanità spirituale e anche la guerra tra di noi, la guerra all'interno della nostra Chiesa, tra parrocchie, tra gruppi, tra persone. Questi sono gli ostacoli dell'evangelizzazione. Quindi bisogna lavorare affinché questi ostacoli siano tolti, siano rimossi, ma una rimozione non forzata, violenta, perché così non ha nessun effetto. Si tratta di una rimozione per scioglimento, potremmo dire, per scioglimento. Come si sciolgono questi ostacoli? Beh, lasciandosi permeare dallo spirito presente nell'Evangelii Gaudium, che è lo spirito stesso del Vangelo. Il Papa auspica una riforma della Chiesa in uscita missionaria. Una parola grande per dire questo. Se vogliamo tornare a vivere come persone, come cristiani, se vogliamo riappropriarci della nostra identità, dobbiamo fare una sola cosa, uscire. Una Chiesa che ha per tantissimi anni e forse anche secoli speso tutte le energie per difendersi, per proteggersi, per autopreservarsi, ecco, questi atteggiamenti di autopreservazione e di difesa hanno con l'andare del tempo portato ad una perdita della propria identità. A forza di difenderci non sappiamo più chi siamo. Non sappiamo più chi siamo perché abbiamo sempre un nemico esterno contro il quale combattere, contro il quale andare, e ci snaturiamo. Allora, per riappropriarci della nostra identità come comunità e come cristiani, il Papa suggerisce bisogna uscire. È l'uscita missionaria che farà la riforma della Chiesa. Sembra un paradosso, no? Però è proprio così. La riforma della Chiesa avverrà grazie all'uscita, grazie a questa disponibilità, docilità a lasciare le nostre sicurezze per andare verso l'altro e gli altri. Allora vediamo in quale modo la Sacra Scrittura è centrale in questo documento. Proporrei due parti, molto serenamente, quindi senza stancare nessuno, spero. La prima parte sostiene che, anzi vorrebbe essere così, una riflessione sul fatto che la Bibbia è in primo luogo, l'anima del documento, nel senso che ne è la sorgente, nel senso che ne è la bussola. Tutto il documento è permeato di Sacra Scrittura. E nel capitolo terzo, verso la fine, capitolo terzo, dedicato all'annuncio del Vangelo, ecco, si legge che l'evangelizzazione è fondata sulla parola di Dio e che viceversa la Sacra Scrittura è la fonte dell'evangelizzazione. Ecco, recita questo numero: tutta l'evangelizzazione è fondata sulla parola di Dio, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata, testimoniata. E poi la Sacra Scrittura è la fonte della evangelizzazione. Quindi è indispensabile che la parola di Dio diventi sempre di più il cuore di ogni attività ecclesiale. Si avverte dunque un'anima profondamente biblica nel pensiero di Papa Francesco. Una radice biblica sembra animare la sua coscienza, sembra animare il suo pensiero, sembra riuscire a far vibrare in un modo così intenso quelle parole che, quando sono pronunciate dal Papa, ci raggiungono immediatamente e ci colpiscono. C'è un'anima biblica che forma, plasma la riflessione del Pontefice e che poi, ovviamente, questa riflessione è consegnata al documento. Perciò vediamo sette semplicissimi esempi che ricercati all'interno del documento Evangelii Gaudium, che vorrebbero appunto così portare alla luce una anima biblica, l'anima biblica del documento. In altre parole, gli argomenti, i temi, gli accenti sui quali il Papa sosta, gli accenti che il Papa rilancia, ecco, i temi sui quali insiste, sono effettivamente temi biblici. Quindi il Papa non dice nulla che non sia profondamente biblico, profondamente già scritto nelle nostre sacre scritture. Il Papa lo vivacizza, lo rende più attuale, se così possiamo dire. Per esempio, l'invito missionario, ecco, si parla dell'Evangelii Gaudium, riforma della Chiesa in uscita missionaria, un documento incentrato sulla evangelizzazione, quindi l'uscita verso gli altri, l'incontro degli altri, ma, strano a dirsi, l'invito missionario c'è già nel Vangelo. Quindi, ad esempio, se prendiamo il capitolo 28 del Vangelo di Matteo, qui ci troviamo tra le mani, sotto gli occhi, il mandato missionario di Gesù. L'evangelizzazione, scrive il Papa, obbedisce al mandato missionario di Gesù. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Secondo esempio, anche questo tema, collegato al precedente, ridondante nell'Evangelii Gaudium, è un tema biblico. Il Papa ci invita ad uscire, quindi evoca il dinamismo dell'uscita. Ma questo tema dell'uscita è biblico, l'esodo non è altro che l'uscita di un popolo da una terra, l'uscita di una persona dalla sua casa. E lo richiama il Papa al numero 20 del documento. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti, e cita Abramo, poi cita Mosè, poi cita Geremia. La particolarità di questa lettura del dato biblico che il Papa ci offre è la seguente. Il Papa ci tiene a dire e insiste sul fatto che tutti siamo chiamati a questa nuova uscita. Quindi non solo l'Abramo di turno, non solo il Mosè di turno, non solo il Geremia di turno, ma tutti siamo Abramo, tutti siamo Mosè, tutti siamo Geremia. Tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata. E qui il Papa è grandioso, perché traduce l'Esodo, traduce il dato biblico in chiave estremamente attualizzante. Non si tratta più di uscire da una terra, ma si tratta, oggi la sfida è qui, l'uscita è qui, si tratta di uscire dalla comodità. Semplicissimo e difficilissimo. L'esodo da vivere oggi, il dinamismo dell'uscita da vivere oggi è dalla propria comodità. E avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. E notiamo, l'ultima riga sottolineata, che qui al numero 20 del documento, per la prima volta, il Papa usa una parola che gli sta tanto a cuore, che è periferie. Ma scavando su questo dato si potrebbe anche dire che la parola periferia è una parola biblica, è una parola evangelica. Gesù inizia il suo ministero in Galilea. E sappiamo che la Galilea delle genti era un territorio mal visto dalla Gerusalemme pura e santa. La Galilea era un territorio contaminato, periferico, quindi Gesù stesso ha iniziato dalla periferia. E il numero 197 dell'Evangelii Gaudium parla di Maria, Maria, la madre di Gesù, qualificandola come un'umile ragazza di un piccolo paese sperduto della periferia di un grande impero. Quindi Gesù e la madre sua, Gesù e Maria, partono, vengono, e vengono da una periferia e vivono per dare speranza a questa e a queste periferie geografiche ed esistenziali. Ancora, terzo esempio, il tema della gioia. Evangelii Gaudium, Gaudium, gioia, gioia del Vangelo. Bene, il tema della gioia attraversa integralmente tutta la Sacra Scrittura e il Papa nei numeri 4, 5 e poi anche 21 offre una carrellata, un'autentica carrellata biblica citando moltissimi esempi dai profeti al Nuovo Testamento. Citando solo brevissimi versetti del Nuovo Testamento possiamo ricordare quel rallegrati Maria rivolto a Maria dall'angelo Gabriele, che noi conosciamo come Ave Maria, però in realtà non la traduzione esatta sarebbe rallegrati Maria. Quindi dalla gioia della incarnazione alla gioia della risurrezione, quando ancora delle donne si dirigono al sepolcro e appunto gioiscono vedendolo risorto. I discepoli in particolar modo, però, i discepoli. Bene. Qui sottolinea il Papa che la gioia del Vangelo, ecco, dopo aver presentato una carrellata di esempi biblici per dire che il Vangelo stesso è intriso di gioia, è una parola gioiosa, dice questo il Papa: la gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. È una gioia missionaria. La sperimentano i 72 discepoli che tornano, la vive Gesù che esulta di gioia nello Spirito, e continua il Papa, questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Qui abbiamo una sorta di cartina al tornasole. Se non c'è gioia, anzitutto nell'evangelizzatore e non si raccolgono frutti di gioia, significa che qualche cosa si è inceppato, che qualche cosa non ha funzionato. La gioia è un segno. Se c'è gioia, allora il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Se non c'è, qualche cosa è da rivedere. Abbiamo fatto magari altro, tante belle attività, ma non abbiamo annunciato il Vangelo. Ancora la promozione umana. Anche questo è un tema biblico. Il Papa insiste sul fatto che bisogna sempre coniugare, sempre tenere unita la evangelizzazione e la promozione umana. Quindi annunciare un messaggio, dare un annuncio che faccia bene alle persone, che promuova le persone in quanto persone. Quindi non un annuncio che cala dall'alto e non dice niente a nessuno, ma un annuncio che promuove la persona. E sappiamo quante volte Gesù abbia incontrato le persone cambiando la loro storia, cambiando la loro vita, restituendole alla loro dignità di persone, prima che di credenti. Ancora un altro esempio. Un quinto esempio, la cura della fragilità. E qui cito dal numero 211 un versetto biblico che si trova nel libro della Genesi, capitolo 4. Mi ha sempre addolorato, scrive il Papa, la situazione di coloro che sono oggetto delle diverse forme di tratta delle persone. Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che chiede a tutti noi: dov'è tuo fratello? Quindi Papa Francesco ci rinvia alla Bibbia, ecco, ci rinvia a questa pagina biblica e così facendo ci dà la motivazione in base alla quale e per la quale noi siamo chiamati a prenderci cura delle persone soprattutto fragili, soprattutto deboli, soprattutto indifese. Un sesto esempio, la scelta dei poveri, dunque, la scelta dei poveri. Il Papa, lo si vede quotidianamente, ha un amore preferenziale per i poveri, un amore preferenziale, questo è incontrovertibile, cioè è evidente sotto gli occhi di tutti. Ma l'Evangelii Gaudium, dunque, ci dà una motivazione, ci spiega perché. Il Papa sceglie i poveri perché Dio fa così. Perché Dio sceglie i poveri e il Papa ascolta il grido dei poveri e invita anche noi ad ascoltare il loro grido perché Dio lo ascolta. Quindi c'è una motivazione teologica, perché Dio fa così. È sufficiente scorrere le scritture per scoprire come il Padre Buono desidera ascoltare il grido dei poveri e cita il grido innalzato in Egitto dagli ebrei schiavi. E Dio lo ha ascoltato e ha soccorso il popolo. Quindi, scrive il Papa, per la Chiesa opzione significa scelta, l'opzione dei poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Ovvero noi incontriamo i poveri non perché è socialmente vantaggioso, non perché è un dato culturale, va di moda, oppure potremmo creare anche delle società più sane, più integrate. Non è questa la motivazione. La motivazione è perché Dio fa così. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani. Cioè il fatto che a Dio importi dei poveri e li scelga di amore preferenziale ha delle conseguenze nella mia vita di fede. Ha un impatto fortissimo nella mia vita di fede perché mi chiama, come singola, ad avere gli stessi sentimenti di Gesù. Quindi a tentare di vivere quel sentimento di accoglienza e di benevolenza che Dio stesso ci insegna. Bene. Andiamo avanti. Scrive il Papa, se noi rimaniamo sordi a quel grido, quindi se noi rimaniamo sordi, non lo ascoltiamo, il grido dei poveri, quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ecco, questa sordità ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo progetto. Ecco perché ne va della mia vita di fede, il fatto che ascolto o non ascolto il grido dei poveri, se la mia sordità mi esclude dalla volontà del Padre, cioè non sto facendo ciò che Dio vorrebbe, ciò che Dio ha nel cuore, ciò che Dio progetta per la sua Chiesa. E ancora, la mancanza di solidarietà verso le necessità del povero influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio. Quindi non si può vivere una fede introversa, una fede privata, una fede fatta di stiamo bene tra di noi o sto bene con me stesso, con me stessa. Una fede privata è bandita dal documento e in tutto sommato direi proprio anche dalla fede cristiana, dalla religione cristiana. L'apertura, l'uscita verso l'altro, soprattutto se povero, è una esigenza della mia fede. Bene. Un ultimo esempio, ricapitolando, stiamo attraversando il documento raccogliendo alcuni esempi che ci dimostrano, ci aiutano a capire come in fondo la Evangelii Gaudium abbia un'anima biblica, si ispiri alla Bibbia. Ecco, l'ultimo punto è il discernimento. Nell'individuare le sfide del mondo attuale e le tentazioni degli operatori pastorali, il Papa si confronta con il Vangelo. Quindi, per individuare ciò che non va, ciò che andrebbe corretto, il Papa non interpella sociologi, psicologi, eccetera, figure rispettabilissime e ovviamente da arruolare nella pastorale senz'altro, ma in primo luogo il Papa si confronta con il Vangelo. Le denunce del Papa sono le denunce dei profeti biblici. Quando il Papa denuncia l'ingiustizia, questa ingiustizia sociale che esclude i poveri a vantaggio di pochi, quando il Papa condanna l'individualismo, l'egoismo, l'alienazione, l'edonismo. Sono le, diremo, denunce tipicamente profetiche. E vediamo nel dettaglio allora due tentazioni vissute dagli operatori pastorali, rintracciate dal Papa attraverso la lettura del Vangelo. Il Papa dice, quando uno si dà da fare, quando uno si getta nella mischia, entra in campo, beh, non sempre va di lusso. Tante volte può subentrare una sorta di stanchezza o anche qualche atteggiamento deviante. Ecco, le chiama tentazioni degli operatori pastorali. Bene, ne elenchiamo solo due. La prima si chiama mondanità spirituale. E la spiega benissimo Papa Francesco. La mondanità spirituale, la quale nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare al posto della gloria del Signore la gloria umana. Quindi io mi do da fare, ma non cerco la gloria di Dio, ma cerco la mia gloria, il mio trionfo. E il Papa ci porta un versetto biblico. È quello che il Signore Gesù rimproverava i farisei. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Oppure, una seconda tentazione, la tentazione della guerra fra di noi, la tentazione di essere sempre in guerra contro tutti, contro qualsiasi proposta, qualsiasi idea, qualsiasi persona. Farsi la guerra civile. Ecco, qui il Papa ci invita a vincere questa tentazione consegnandoci un altro versetto evangelico, tratto sempre dal Vangelo di Giovanni, questa volta il capitolo 13, laddove Gesù dice: "Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri." Quindi la testimonianza passa attraverso l'amore, passa attraverso la capacità di volersi bene reciprocamente. Bene, sette esempi biblici. Veniamo alla seconda parte. La seconda parte di questa presentazione prende in esame un'altra dimensione del rapporto tra Bibbia ed Evangelii Gaudium, ovvero questo. Il documento, l'Evangelii Gaudium, è un documento che non si è lasciato ispirare dal Vangelo, quindi ha nel Vangelo la sua fonte primaria, ma anche l'Evangelii Gaudium ha come tema centrale l'evangelizzazione, ovvero l'annuncio del Vangelo. Quindi il Vangelo è il tema centrale dell'Evangelii Gaudium perché il Vangelo è il tema centrale dell'evangelizzazione. Ecco, la parolina tema è infelice, non è proprio un tema, però giusto per capire la categoria. Il Vangelo è ciò di cui parla il documento, è il contenuto principe del documento. Tant'è che chi legge questo documento ne esce evangelizzato. Ne esce evangelizzato, questo ha una forza di conversione, questo documento, che è formidabile. Si entra in questo documento in un certo modo, se ne esce in un altro modo. È un documento che evangelizza perché parla del Vangelo, ha il Vangelo come suo oggetto, come suo tema, come sua asse portante. E venendo così a scavare questo concetto, qual è il cuore del Vangelo? Il cuore del Vangelo, come sappiamo, è il mistero pasquale. Ma qui Papa Francesco sempre ci sorprende. A Papa Francesco importa soprattutto un aspetto, chiamiamolo così, sempre impropriamente, sempre infelicemente, ma giusto per capirsi, un aspetto del mistero pasquale che è la risurrezione. La risurrezione. Noi siamo figli di una Chiesa che per motivi comprensibili e anche giustificabili, se vogliamo, però una Chiesa che si è soffermata in lungo e in largo sulla morte di Gesù. Passione, morte di Gesù. E dalla meditazione di questo mistero sono sorti anche tantissimi ordini religiosi. Il Papa ci invita a spostare un po' l'asse e a trovare un altro baricentro, ovvero Gesù sì, è morto, ma poi è anche risorto. Ora, la risurrezione non è magari qualche cosa da perdere per strada. La risurrezione è il cuore dell'annuncio, che quest'uomo è risorto, morto è risorto. La risurrezione è ciò che il Papa chiama cuore del Vangelo. E questo è, secondo il Papa, la sorgente dell'azione evangelizzatrice, cioè l'incontro con Gesù morto e risorto è la sorgente dell'azione evangelizzatrice. Perché il problema è semplice e ci riguarda tutti. Dopo che uno ha magari appreso tante cose a livello teorico, lo schemino è chiaro, il programma è chiaro, i contenuti sono chiari, manca la forza di uscire. Allora la comodità, la tristezza, la pigrizia, l'inerzia, ma chi me lo fa fare, ma perché, ma potevo dire di no, ma ancora tante cose che ci trattengono. Allora il problema è trovare la molla. Che cosa mi fa scattare? Che cosa mi fa uscire? Che cosa mi fa andare? Non un atto di volontarismo, non è possibile reggere a lungo con questa categoria. La molla è l'incontro con Gesù morto e risorto. Ecco perché questo incontro è la sorgente dell'evangelizzazione. Chi non ha incontrato il risorto non può evangelizzare. Farà altro, ma non può evangelizzare. E scrive il Papa, ha delle parole bellissime sul fatto che ciascun cristiano è invitato a rinnovare il suo incontro con Gesù. Questo lo approfondiremo meglio venerdì prossimo appunto in un incontro apposito, però lancio solo così una breve riflessione. L'incontro con Gesù è un incontro vitalizzante, ecco, abbiamo bisogno di vita. L'incontro con Gesù è un incontro vitalizzante perché Gesù dona senso a tutto ciò che viviamo, a tutto quello che viviamo. Quindi qualsiasi esperienza che noi possiamo vivere, soprattutto negativa, se attraversata con Gesù nel suo mistero pasquale, prima o poi trova il suo senso, prima o poi trova la sua collocazione. Quindi incontrare Gesù significa incontrare una persona capace di amare così tanto la nostra vita da non rassegnarsi a perderci. Dio non si può rassegnare, Gesù non si può rassegnare al nostro smarrimento, alla nostra autodistruzione. Un amore così forte che prima o poi ci rimette in piedi, ci fa risorgere. Ecco, incontrare Gesù morto e risorto è esattamente incontrare questo amore vitalizzante. E il Papa ha un numero straordinario, straordinario su questo passo e scrive: "Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Potranno dirci di tutto, potrà accadere di tutto, ma niente, nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e di ricominciare con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Perciò l'invito è a non fuggire dalla risurrezione di Gesù. Non diamoci per vinti, e qui passaggio strepitoso, accada quel che accada. Accada quel che accada, qui può davvero accadere di tutto nella nostra vita, accada quel che accada, non fuggiamo, cioè Gesù resta. Noi non dobbiamo fuggire dalla risurrezione di Gesù, non diamoci per vinti, nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti. E qui c'è una scelta di campo da fare, ovviamente, con o contro. E ancora, a complemento di questo numero, che è il numero 3, quindi è iniziale, vorrei citare il numero 164 perché riguarda anche gli operatori pastorali. Scrive il Papa: "Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio. Gesù ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti." Questo è il messaggio da dare alle persone, ovviamente calibrato e dosato, anche rispettando le situazioni delle persone, certo, bisogna sempre rispettare la persona e il momento in cui la persona si trova, però questo è l'annuncio che prima o poi va dato. E mi viene da pensare invece tante volte, le nostre parole sono altre, il nostro annuncio è diverso. Cioè, diciamo tante cose, ma questo annuncio talvolta è fonte di vergogna. Lo si così annebbia, annebbia. Bene. Se uno ha incontrato allora Gesù morto e risorto, l'annuncio, quindi l'uscita missionaria, non potrà che essere una inevitabile conseguenza. Cioè non potrò non dire la gioia che vivo, non potrò non esprimere la gioia che mi ritrovo inaspettatamente tra le mani. Quindi l'annuncio, l'uscita sarà una inevitabile conseguenza e anche una necessità vitale per la Chiesa, l'abbiamo visto all'inizio, una necessità vitale per la Chiesa. La Chiesa non è Chiesa se non annuncia. E poi anche, continua il Papa, una necessità vitale per se stessi, per il cristiano. Qui cito il numero 273, che è un numero formidabile. La missione non è una parte della mia vita o un ornamento che mi posso togliere, non è un'appendice o un momento tra tanti dell'esistenza, è qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra. Da qui allora l'invito che il Papa ci rinnova, rivolto ad ogni cristiano in qualsiasi luogo e situazione, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù. Bene. Da qui, allora, una volta che si è avuto, anche per grazia se vogliamo, senz'altro, anche per grazia, la possibilità di accostare questo amore sanante, riabilitante, costruttivo, un amore che fa risorgere, ecco allora si annuncia il Vangelo, lo si annuncia questo che si è vissuto. Però il Papa è così generoso anche da prenderci per mano e darci alcuni principi guida per l'annuncio del Vangelo, cioè concretamente come si fa. Bene, allora il Papa dice, anzitutto c'è un principio ermeneutico fondamentale, principio ermeneutico, ermeneutica significa interpretazione. Ecco, il principio fondamentale che guida l'annuncio è questo, Vangelo sine glossa. Sineglossa è un'espressione che il Papa scrive nel numero 271 e significa, è un'espressione latina che significa leggere, accogliere, mettere in pratica il Vangelo per quello che il Vangelo è, per quello che il Vangelo dice, senza interpretazioni che oscurano o indeboliscono il significato del Vangelo. In altre parole, il Vangelo è talmente tanto interpretato che il suo cuore, il suo messaggio viene svilito, il suo messaggio viene alterato, viene sbiadito, viene indebolito. Quindi troppi commenti al Vangelo sviliscono la forza del Vangelo. Quindi il Papa dice, il Vangelo, chiaro, ci sono alcune parti che vanno commentate perché è un libro storico, quindi va anche, ci sono dei metodi esegetici che tuttavia il Papa registra, registra e anche condivide, però a forza di interpretare troppo poi non si capisce più che cos'è il Vangelo. E scrive il Papa nel numero 194, il Vangelo annuncia un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice, così eloquente che nessuna ermeneutica ecclesiale, cioè nessuna interpretazione promossa dalla Chiesa, ha il diritto di relativizzare. Tanti esegeti potrebbero dire Gesù ha detto così, sì, ma non voleva dire proprio così. Sì, il dato, l'interpretazione è doverosa, però non va esasperata. Ci sono dei passi che sono chiari. Quando Gesù dice amiamo i poveri, allora non si possono interpretare queste parole. Bisogna semplicemente mettersi all'opera. Quindi il Papa continua, perché complicare ciò che è così semplice? Perché oscurare ciò che è così chiaro? Vangelo sine glossa. Per attuare dunque, per annunciare un Vangelo sine glossa però, ovvero annunciare il Vangelo per ciò che il Vangelo è e per ciò che il Vangelo dice, nella sua purezza cristallina, sono necessari degli accorgimenti. Bisogna accogliere questo sublime tesoro della parola rivelata. E accoglierlo significa anzitutto conoscere, studiare, pregare la Sacra Scrittura. Qui il Papa insiste sulla necessità che la Sacra Scrittura sia studiata in modo serio e in modo anche personale. E continua il Papa: noi non cerchiamo brancolando nel buio, a volte siamo disorientati, cosa facciamo, cosa non facciamo. Ecco, noi non cerchiamo brancolando nel buio, perché Dio ha parlato. Se Dio ha parlato, apriamo il libro e leggiamo. Chiaro, non è così semplice, però un primo accostamento alla scrittura va fatto. Se poi le domande incalzano, beh, insomma, si cerca anche di aiutarsi reciprocamente o ci si iscrive a una scuola di teologia, per esempio. Però il punto è che Dio ha parlato, quindi noi non brancoliamo nel buio. Ancora, accogliere il sublime tesoro della parola rivelata significa amare la scrittura, rendersi familiari con la scrittura e personalizzare la parola. E qui ha un numero favoloso. Scrive il Papa: la predicazione della predica, quindi sta parlando dell'omelia, però è una riflessione estendibile a tutti, richiede amore. Si dedica tempo gratuito e senza fretta unicamente alle cose o alle persone che si amano. E qui si tratta di amare Dio che ha voluto parlare. Entra in gioco il fattore amore, che è collegato al fattore tempo. Io do del tempo solo a una persona o a una realtà che amo. Viceversa, non ho tempo, non ho mai tempo. Perciò amare la scrittura per poter dare tempo a questo libro e capire che cosa Dio che parla ci dice. Ancora, la docilità a lasciarsi evangelizzare dalla parola. Quindi prima di annunciare agli altri bisogna annunciare a se stessi, vale a dire prima di predicare agli altri bisogna lasciarsi evangelizzare. Quindi si entra in gioco come protagonisti. Prima di preparare concretamente quello che uno dirà nella predicazione o nell'annuncio, scrive il Papa con parole bellissime, bisogna accettare. È un verbo forte, perché ci sono delle resistenze, ci sono dei rifiuti, ci sono, sì, delle insofferenze. Ecco, accettare di essere ferito per primo da quella parola che ferirà gli altri, perché è una parola viva ed efficace. Bene, questo è il criterio ermeneutico fondamentale, Vangelo sine glossa, applicabile probabilmente nelle condizioni dette di conoscere, studiare, pregare, amare la scrittura e lasciarsi convertire da essa. Veniamo ora ad elencare brevemente, siamo quasi in chiusura, i criteri pratici che il Papa ci consegna per l'annuncio. Allora, c'è un primo criterio più pratico, più spicciolo, che è la gerarchia delle verità. Vale a dire, non bisogna dire tutto subito, ma bisogna puntare al cuore, intercettare il cuore, intercettare la cosa più importante da dire. E, come già detto, la cosa più importante da dire è il messaggio pasquale, che Gesù è morto ed è risorto. Scrive il Papa: noi siamo vittime di una pastorale ossessionata. La parola essere ossessionati ricorre tante volte nel documento. Una chiesa ossessionata dalla trasmissione di una moltitudine di dottrine. Bisogna dire tanto, bisogna dire tutto, poi non si capisce come sono collegate. E invece il Papa dice: bisogna concentrarsi sull'essenziale, su ciò che è più bello, su ciò che è più grande, su ciò che è più attraente e nello stesso tempo su ciò che è più necessario. E che cos'è questo? È la bellezza dell'amore di Dio che salva, che si è manifestato nel suo figlio. Ancora un secondo criterio pratico, la proporzione dei temi. Bisogna dare spazio proporzionato ai diversi temi in modo tale da rispettare l'integrità del messaggio evangelico. Quindi prima o poi bisognerà dire un po' tutto, ecco. Ancora un terzo criterio, questo ci interpella oggi moltissimo, che è la docilità al soffio dello Spirito. Vale a dire, se Gesù è risorto, allora è vivo. E se Gesù è vivo, può effettivamente suggerire alla Chiesa alcuni orientamenti e atteggiamenti. Cioè, è possibile che Gesù abbia qualche cosa da dirci, se è vivo. Quindi l'invito è ad essere docili, la docilità, non irrigiditi nella difesa delle tradizioni perché un passato era tutto così, tutto più bello. No, docilità al nuovo che avanza, docilità alla novità che Dio sta sussurrando alla Chiesa di oggi. Ed è una grande fatica, perché questo significa sbilanciarsi verso il futuro. E noi invece siamo arroccati sul passato, a difendere conquiste, traguardi raggiunti. Invece il Papa dice così non funziona. Bisogna accettare, ritorna questa parolina, la Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola. La parola ha in sé una potenzialità che noi non possiamo prevedere. La parola, il Vangelo, una volta che è annunciato, non si sa che cosa possa produrre, ma dobbiamo accettare questa libertà, dare alla parola la libertà di dirsi, di creare cose nuove, di suscitare eventi nuovi nella Chiesa. Dobbiamo accettarla, questa libertà inafferrabile, inafferrabile, non la puoi prendere, non la puoi dominare, non la puoi nemmeno capire. Qualche cosa che ti sfugge, allora uno si disorienta. E questa è un'esperienza dello Spirito. E continua, ogni riga del documento è straordinaria, una parola che è efficace a modo suo. A modo suo. Tante volte noi lo rimproveriamo, Dio perché non fa così e cos'ha. Sì, ma Dio opera a modo suo. Arriva, salva, sana. A modo suo. E dobbiamo accettare questa libertà, dare a Dio la libertà, in un modo paradossale. E poi, ancora andiamo avanti, un altro criterio pratico, questo è una sorta di cartina al tornasole, cioè un criterio per vedere se siamo sulla strada giusta, un criterio chiave di autenticità per vedere se stiamo evangelizzando. E questo criterio è la memoria dei poveri. Il Papa cita un passo della lettera ai Galati dove San Paolo si reca dagli Apostoli a Gerusalemme per capire se sta correndo invano o se sta correndo per Cristo e per il Vangelo. E gli viene indicato come criterio chiave di autenticità della sua corsa la memoria dei poveri. La memoria dei poveri. E d'altra parte il Papa ha iniziato così il suo pontificato, perché ha scelto il nome Francesco per non dimenticarsi dei poveri. Voleva un nome che fosse sempre, che custodisse in ogni istante la memoria delle persone per le quali egli appunto è stato eletto ed inviato. Ma torniamo a riflettere sulla questione dei poveri. Abbiamo detto prima che la questione dei poveri non è una questione sociologica, non è una questione culturale, non è una questione di convenienza economica, ma è una questione teologica. E dunque il Papa approfondisce questo tema e ci dice: dobbiamo avere a cuore i poveri e fare della memoria dei poveri il criterio di autenticità della nostra evangelizzazione. Per esempio, per altri due motivi. Il primo è che, a pensarci bene, leggendo tutta la Bibbia, Non si può non dire che la salvezza ci è giunta attraverso i poveri. Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato da poveri. Questa salvezza, scrive il Papa nel numero 197, è giunta a noi attraverso il sì di una ragazza di un piccolo paese sperduto nella periferia di un grande impero. Poi il Salvatore, cioè Gesù, è nato in un presepe tra gli animali, come accadeva per i figli dei più poveri. E via dicendo, fino al passo evangelico Matteo 25, in cui Gesù si identifica con il povero. Avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere. Quindi la salvezza è segnata dalla presenza di persone povere che Dio sceglie come strumento di redenzione. E ancora un altro motivo: i poveri, scrive il Papa, non vanno compatiti, i poveri vanno ascoltati perché ci evangelizzano. Desidero una chiesa povera per i poveri, essi hanno molto da insegnarci. E che cosa hanno da insegnarci? Partecipano del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Quindi loro, i poveri, conoscono il Cristo sofferente. Quindi ci dicono chi è il Cristo sofferente. Quindi davvero persone che hanno molto da insegnarci, non con la loro riflessione teologica, ma con la loro vita, con la loro vita. Bene, è talmente centrale per il Papa l'attenzione al povero che nel numero 201, alla fine di alcuni numeri sui poveri, egli sfoga il suo presentimento e dice: temo, ho paura che anche queste parole, cioè anche questa volta, ecco, le parole che ho pronunciato siano solo oggetto di qualche commento senza una vera incidenza pratica. Cioè, ancora una volta abbiamo fatto la bella riflessione sui poveri e poi buonanotte, ognuno a casa propria. Temo questo, temo. Però ci dà fiducia. Nonostante ciò, confido nell'apertura e nelle buone disposizioni dei cristiani e vi chiedo di cercare comunitariamente nuove strade per accogliere questa rinnovata proposta. Quindi anche fa un atto di fiducia nei nostri confronti. Bene, rapidamente passiamo verso la fine e vorrei affrontare un ultimo punto che mi pare significativo, trattando del rapporto tra Evangelii Gaudium e Scrittura. Oltre a parlare della risurrezione, il Vangelo ci parla, ci annuncia un altro mistero fondamentale della vita di Gesù, che è la sua incarnazione. Quindi Gesù, figlio di Dio, morto e risorto e incarnatosi. Incarnatosi. Quindi il tema dell'incarnazione ha molte implicazioni per la evangelizzazione. Ne elenco solo alcune e poi, chiaro, tutte le altre le si possono rintracciare leggendo il documento. La prima implicazione: l'incarnazione della parola. Se Gesù, che è la parola, si è incarnato, ciò significa che la parola evangelica, la parola che è il Vangelo, deve diventare carne nella nostra esistenza concreta. In questo modo la predicazione consisterà in un'attività intensa e feconda che consiste nel dire agli altri ciò che uno ha contemplato. Questo significa incarnare la parola, contemplare e dire agli altri ciò che uno ha contemplato. Ancora, riconoscere l'altro come un fratello. La parola di Dio insegna che nel fratello si trova il permanente prolungamento dell'incarnazione. Ecco perché il Papa ama soprattutto i poveri, ma d'altra parte ogni persona. Perché l'altro, specie se sofferente, è il prolungamento del corpo di Cristo. È il prolungamento del corpo di Cristo. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ancora, l'incarnazione ha come conseguenza l'invito che dobbiamo avere nei confronti degli altri. Ma il Papa è speciale perché imposta questo discorso in una maniera originalissima e dice che dobbiamo avere attenzione per l'altro. Cioè, non gli basta dire apriamoci agli altri, vogliamo bene agli altri, soccorriamo gli altri, non gli basta. Il Papa dice bisogna avere attenzione per l'altro. Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro. Incontrare le persone è un rischio. Sì, è un rischio, perché non sai mai che cosa capiterà, che cosa ti chiederanno, quali problemi magari espongono, come ti tratteranno. Incontrare gli altri è sempre un rischio. Il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella, con il suo dolore, con le sue richieste, con la sua gioia contagiosa, in un costante corpo a corpo. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Quindi l'incarnazione ci invita ad avere attenzione per l'altro in modo da incontrarlo con la stessa benevolenza, con la stessa tenerezza con la quale Gesù ha incontrato le persone. E qui leggo un altro numero che mi sembra stupendo, dove il Papa descrive benissimo quello che stiamo vivendo. In una città paradossalmente ferita dall'anonimato e allo stesso tempo ossessionata per i dettagli della vita degli altri, quindi una società ferita dall'anonimato perché ognuno fa gli affari propri e al tempo stesso ossessionata per i dettagli della vita degli altri, e qui i mass media, eccetera, spudoratamente malata di curiosità morbosa, questa è la nostra società, bene, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi, fermarsi davanti all'altro, tutte le volte che sia necessario. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi, incoraggi a maturare nella vita cristiana. Quindi attenzione all'altro, alla vita dell'altro, farsi prossimi all'altro e rallentare un po' i ritmi. Ancora, Gesù si identifica specialmente con i piccoli e con i poveri. Su questo punto già abbiamo detto abbondantemente, ecco, Gesù ovviamente ha a cuore i poveri e si identifica con essi. E questo, diremo, è una conseguenza importante per noi perché siamo chiamati a riconoscere nelle nuove forme di povertà non un problema sociale. Le nuove forme di povertà non sono un problema sociale, ma sono, in una lettura di fede, un Cristo che avanza, un Cristo sofferente che avanza e che probabilmente, come già accaduto, morirà fuori di Gerusalemme. Andiamo avanti. Ecco, un punto centrale del documento che discende esattamente dal mistero dell'incarnazione. Gesù che si è incarnato e attraverso questa sua presenza tra di noi, ecco, Gesù ci rende tutti uno in Lui, Gesù ci rende parte del suo corpo. Ne consegue che non siamo degli estranei gli uni per gli altri. Il Papa auspica la creazione di una fraternità mistica contemplativa. parlando delle nuove generazioni, delle nuove relazioni generate da Cristo Gesù, ecco, il Papa ci invita a creare questa fraternità mistica, contemplativa. Il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana. Ecco, siamo partiti da qua, una società ammalata, rattristata, svilita. Il modo di relazionarci che realmente ci risana è una fraternità mistica, contemplativa. E cosa significa una fraternità mistica? È una fraternità nella quale siamo tutti capaci di guardare al prossimo come a una realtà sacra. Guardare alla grandezza sacra del prossimo per scoprire in ogni essere umano Dio. Questa è la fraternità mistica contemplativa che sgorga appunto da uno sguardo diverso sugli altri. Bene, questa è un po' la sintesi del percorso. Vorrei aggiungere solo un punto, ma probabilmente verrà ripreso nei venerdì prossimi. C'è un altro aspetto, direi, utile sul quale riflettere e anche da consegnare alla riflessione. Gli evangelizzatori, oltre ad avere un contenuto da dire, che è l'annuncio di Gesù morto e risorto per me, perché ama la mia vita, questo è il contenuto, ecco, gli evangelizzatori, secondo il Papa, dovrebbero un po' cambiare lo stile. Lo stile, ecco, non c'è nessun numero specifico dedicato allo stile, però di fatto è un riferimento che attraversa tutto il documento. Vi cito solo alcuni esempi. Ci sono dei numeri nei quali il Papa fa delle denunce, cioè i cristiani hanno uno stile sbagliato, vale a dire uno stile di Quaresima senza Pasqua. Per esempio, siamo al numero 6, ma al numero 33 il Papa dice la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così. Parole del Papa, non me le sono inventate io. Il Papa scrive questo, bisogna abbandonare quel comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così. Questo è uno stile che non va bene, rivangare il passato perché tanti anni fa eravamo più felici di adesso, è uno stile che non va bene. Bisogna essere, dice il Papa, audaci, creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile, i metodi. E parla proprio al numero 35 di uno stile missionario, cioè una chiesa permanentemente in uno stato di evangelizzazione, in uno stato missionario. Quindi queste alcune denunce, poi alcuni inviti, bisogna ad esempio, scrive il numero 91, relazionarsi con gli altri con un atteggiamento giusto. E questo numero sarebbe importante anche meditarlo all'interno delle assemblee così parrocchiali. Imparare ad incontrarsi con gli altri con l'atteggiamento giusto, con lo stile giusto, ovvero apprezzandoli, accettandoli come compagni di strada senza resistenze interiori. E imparare, quando uno si trova magari ad avere a che fare con persone difficili, è imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità. Accada quel che accada, io scelgo la fraternità. Bene, e qui concludiamo, rilancio solo un ultimo punto, se vogliamo imparare lo stile, ecco, è consigliabile leggere il Vangelo, perché effettivamente Gesù ha stile nel suo modo di accostare le persone e di dire le cose, ecco, quindi Gesù è il vero evangelizzatore, non solo è ciò che dobbiamo annunciare, ma è anche un maestro che ci insegna come fare in questo cammino. Grazie. La professoressa Roberta Ronchiato, intervenuta all'inizio di novembre sul tema Il Vangelo non si addomestica, l'anima biblica della Evangelii Gaudium, primo del ciclo di quattro incontri promossi proprio sulla esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, uscire per annunciare. Domani ancora insieme per il secondo incontro e sentiremo la relazione di Manuel Rossi, dottorando in teologia pastorale, formatore dell'Evangelio. La settimana prossima, lunedì 13 e martedì 14, poi completeremo il ciclo dei quattro incontri. E di là c'è la parte tecnica, Mirko Cavallini studio in redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.